stato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi. 87.9, questa è Radio Onda Rossa e come avete ben potuto ascoltare dal nostro trailer così di Boris, ormai sta per iniziare la trasmissione Tabula Rasa. Allora, abbiamo qui, faremo due presentazioni quest'oggi di due libri. Il primo si intitola L'orecchio verde di Gianni Rodari per Stampa Alternativa a cura di Stefano Panzarasa che abbiamo qua. Io saluto, ciao Stefano. E poi dopo vabbè, passeremo a Zero Calcare e andremo a presentare La profezia dell'armadillo. Allora, innanzitutto, ciao Stefano, allora questo grosso volume, oltre ad essere un racconto, qui ci leggo sempre dalla copertina, l'ecopacifismo, le poesie, la visionarietà, la pratica della fantasia e le canzoni ecologiste, tutto ciò di Gianni Rodari, c'è al suo interno anche un CD di musica, di interpretazioni di filastrocche e di storie raccontate nel corso degli anni, soprattutto ai bambini di Gianni Rodari. Insomma, Gianni Rodari è rimasto nella storia proprio per la sua passione, la sua capacità di interloquire con i bambini e costruire con loro delle storie sempre molto attinenti alle realtà, quindi non soltanto le fantasie di un mondo immaginario, ma crescere insieme ai bambini, alle bambine, facendo appunto delle filastrocche che poi insomma l'hanno anche lasciato nella storia per questo. E tu e il tuo gruppo insomma avete interpretato alcune di queste storie. La prima domanda che ti faccio è ovviamente come è nata questo amore per Gianni Rodari e per il suo mondo, perché poi insomma voi all'interno del libro lo raccontate molto bene. Il libro è una raccolta praticamente di tutta la l'empatia di Gianni Rodari con i bambini. Eh sì, vedo che mi fa piacere che l'hai letto e l'hai anche apprezzato. È nato in modo del tutto casuale questa storia. Io lavoro in un parco regionale, il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretidi, che poi sarebbe la montagna di Roma, Monte Gennaro. Probabilmente si vede pure qui dalla piazza del mercato di San Lorenzo, si vede la cima del Gennaro, quindi è la montagna di tutti i romani, insomma. E noi anni fa nel parco volevamo organizzare il consiglio del parco dei ragazzi, cioè dare voce ai bambini, alle bambine, pensando che come i poeti sono quelli che forse hanno qualcosa da dire per una società, un mondo migliore, come diceva Gianni Rodari, e io vorrei dire un mondo ecologista, insomma, ispirato più dalla selvaticità che dall'economia, insomma, dal potere, dal possesso. E all'Agenzia Regionale per i Parchi ci dettero durante un seminario una filastrocca da leggere che parlava di un signore con un orecchio acerbo verde, che quindi con questo orecchio che non era mai maturato riusciva a ascoltare le voci dei bambini, quello che i bambini vorrebbero dire ai grandi e che i grandi non riescono più a sentire, ma anche la voce del torrente, del fiume, delle nuvole. Praticamente io rimasi illuminato, una specie di moderno sciamano, e invece era un Gianni Rodari che già dagli anni 50 parlava di questi temi. E la poesia era del 79, cioè praticamente un suo testamento ecologico pacifista, quasi un manifesto, come poi è stato definito nel libro da una studentessa che poi si è laureata in una tesi su Gianni Rodari, e l'Università di Genova ha certificato questa filastrocca come un manifesto ecologico pacifista, qualcosa di veramente importante per l'umanità. Se volete, ascoltando il testo si capirà che è tanto semplice e divertente quanto profondo, diciamo, si parla di ecologia profonda, quindi insomma, ecco. E fra poco ce l'andremo ad ascoltare. E diciamo, è un libro molto denso questo. Sì. Come ti, in cui hanno partecipato tantissime persone, autori di tutte le età, dai bambini di 3 anni della scuola materna. Avete fino raccolto a... anche tutta la, diciamo così, le classiche. Gianni Rodari era un insegnante e quindi diciamo così anche ho visto i disegni. Io lavoro con le scuole, quindi ho portato le sue filastrocche, diciamo, ecopacifiste ai bambini di ogni età, ma nel libro ci sono anche i grandi autori rotariani tipo Pino Boero, Marcello Orgilli, c'è la stessa moglie di Gianni Rodari che partecipa con un'intervista. Insomma, Rodari stesso voleva alla fine parlare per tutti, non solo, cioè per i bambini principalmente, ma anche per i genitori, per gli insegnanti, insomma. E poi i bambini degli anni 50-60 come me adesso sono anche adulti e ancora si ispirano o si potranno ispirare a quello che la poesia di Rodari ci dice, ma anche come pratica di vita. Noi per esempio al parco dei Lucretili, dalla poesia Il pane, nelle scuole facciamo i laboratori e insegniamo a fare il pane ai bambini, insomma. Allora ci andiamo ad ascoltare subito dal CD, lo ricordiamo che si trova anche insieme al libro per stampa alternativa, proprio L'orecchio. E le canzoni, voglio dire, sono veramente per tutti, alcune sono rock, reggae, punk, insomma, c'è pure una canzone che è un coro di bambini, insomma, così. Andiamo a sentirci L'orecchio. Buon ascolto. Buon ascolto. Pranica di Terbo, vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi era maturato, tutto tranne l'orecchio che acerbo era restato. Cambiai subito posto per essergli vicino e potermi studiare il fenomeno per benino. Signori, dissi dunque, lei una certa età, di quell'orecchio verde che cosa se ne fa? Dica pure che sono vecchio, di giovane mi è rimasto soltanto questo orecchio. È un orecchio bambino, mi serve per capire le voci che i grandi non stanno mai a sentire. Ascolto quel che dicono gli alberi e gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose. Quel giorno sul diretto Capranica di Terbo, così disse il Signore con un orecchio acerbo. Quel giorno sul diretto Capranica di Terbo. Allora Stefano, stiamo presentando con te, con Stefano Panzarasa, questo libro edito dalla Stampa Alternativa, si chiama L'orecchio verde di Gianni Rodari, l'ecopacifismo, le poesie, la visionarietà, la pratica della fantasia e le canzoni ecologiste. Innanzitutto ti volevo chiedere come, insomma, anche il gruppo musicale, voi suonate, come nasce, come, se fate ovviamente soltanto delle rivisitazioni, in questo caso delle filastrocche di Gianni Rodari, oppure insomma, suonate anche altro. Io intanto nasco come chitarrista solista nelle scuole per il piacere di farlo, poi piano piano degli amici mi hanno aiutato a arrangiare le mie canzoni e alla fine, dato che gli arrangiamenti erano stati fatti in studio, è nato così, quasi dal libro stesso, perché usciva il libro, io non avevo un gruppo, invece piano piano qualche altro amico mi si è avvicinato e è nato il gruppo Insalata Sbagliata, sempre da un altro testo di Gianni Rodari, che poi è un testo, una canzone che si può anche assaggiare, perché c'è una vera e propria ricetta di un'insalata ricca alla romana, perché Rodari del nord, ma viveva a Roma dagli anni 60. E questo gruppo sì, canta le canzoni ecopacifiste che io ho composto dai testi di Gianni Rodari, ma anche canzoni nostre. Ce n'è una contro la camorra e la mafia, sui rifiuti, insomma, un'altra che lascerò qui alla radio, il senso della vita, che abbiamo fatto ai tempi del referendum, per fortuna stravinto, sull'acqua pubblica. E peraltro Rodari ha affrontato anche questo tema con una bellissima filastrocca, poesia che noi abbiamo pure musicato, che si chiama Il cielo è di tutti. Non è nel CD, però insomma, se qualcuno poi mi contatterà, gliela posso mandare in MP3, insomma. Con Rodari comunque si arriva a qualsiasi argomento, era veramente un visionario, proprio aveva in mente tutti i temi anche attuali nella sua epoca, ma attuali anche adesso, insomma. Per me è un ecologista ante litteram. Senti, che infatti diciamo che pure per me che quando legge, molte volte si leggono le filastrocche quando si è bambini, si è bambine, poi e si ha un senso, lo si ascolta con un senso che molte volte è quello della rima oppure delle parole che ci rimangono in mente. Poi difficilmente da adulti riandiamo a rileggere o quello che abbiamo ascoltato da bambini. Invece adesso, dovendo rileggere insomma questo libro, poi alla fine mi ha molto appassionato per questo motivo, perché rileggere adesso delle filastrocche, insomma, noti quanto siano forti e con contenuti molto molto potenti, insomma, sì, ma sempre anche divertenti, sempre divertenti, questo quasi, tranne qualche eccezione di cui, se vuoi, poi possiamo anche parlare. Però di solito Rodari proprio scriveva per far divertire e ragionare. Quindi, e come nasce? Raccontaci un po' anche di Gianni Rodari, che casomai non tutti lo conoscono in questo sicuramente chi ascolta la radio sì, però insomma anche ricordare questo Beh, uomo. Gianni Rodari nasce a Omegna, nel nord Italia, sopra Milano, il Lago d'Orta, nel 1920. E lavorava col papà che faceva il fornaio. Tra l'altro il papà morì per salvare un gattino durante un temporale, cioè si prese una polmonite perché si asciugò le spalle al forno, insomma. Però Rodari non odiò per sempre i gatti, anzi la vita letteraria di Rodari è intrisa di gatti, storie di gatti, filastrocche, poesie. Sicuramente gli è rimasto impresso nella vita. Beh, il papà tutto sommato morì per salvare un animale, insomma, è un bellissimo atto, un dono, insomma, una vita contro una vita animale, insomma, è importante. Io poi lavoro nel campo della conservazione della natura, quindi posso capire quanto, che bella cosa, insomma, è successa. E il libro stesso è intriso di disegni di gatti dei grandi illustratori come Maulini, che ha disegnato la copertina, che ha 90 anni, insomma, adesso, Emanuele Luzzati, che è uno dei più grandi illustratori italiani, e poi disegni di bambini, come ci sono nel libro, filastrocche, poesie, racconti di bambini. C'è persino un racconto iniziato, La bambina dai capelli d'oro, iniziato da Rodari un anno prima di morire in una classe nel napoletano, e poi continuato dai bambini e concluso dai bambini, quindi anche un inedito. La bambina dai capelli d'oro che viene rapita per il suo valore, per i suoi capelli, dove poi c'è un bambino con un orecchio verde che ascolta le voci della natura e la va a salvare. Eh sì, ecco. E quindi diciamo poi Gianni Rodari è venuto a Roma a un certo poi punto. È venuto a Roma perché comunque Gianni Rodari era un comunista, anzi Marcello Argilli ci tiene a ricordare che è morto con la tessera del Partito Comunista in tasca, era un comunista militante, anche se poi il partito è molto anche divergente dal proprio dal rigore comunista di quei tempi, infatti fu emarginato, lui non partecipò a nessuna commissione ministeriale per l'educazione. Incredibile, ma aveva le sue idee molto di rottura, innovative, trasgressive, non rispettava evidentemente le regole imposte. Giustamente lui diceva che le regole sbagliate vanno, bisogna disubbidire, anzi diceva il mondo sono i disubbidienti che lo mandano avanti, e quindi però io la fecero pagare in qualche modo. Comunque era conosciuto e amato dappertutto. Negli anni 60 in Russia, dove poi fu conosciuto prima ancora che in Italia, hanno venduto già 7 milioni di copie dei suoi libri. Quindi era, ma lui alla fine riusciva anche in Russia a parlare male dei militari, però parlandone in modo ai bambini faceva passare i suoi discorsi, insomma, sulla pace, contro le bombe nucleari. E quindi è venuto in Italia negli anni 60, ha lavorato a Paese Sera, era un giornalista, era un inviato speciale, e per caso era una di quelle persone che negli uffici si divertiva a fare le filastrocche per i colleghi. Lo scoprirono, il capo redattore, e da lì è iniziata la sua avventura poetica, che poi lui ha utilizzato benissimo, perché ha capito che forse poteva essere più utile alla società come poeta che come giornalista, anche se come giornalista era molto molto bravo, insomma, sicuramente. Che ci andiamo ad ascoltare adesso? Abbiamo detto? Quella che è dedicata alla radio. Ah, ecco, appunto. Sì, Rodari c'è sempre qualcosa per qualsiasi avvenimento. Allora, per Radio Onda Rossa avevo pensato di dedicare una canzone del gruppo che non è del CD, però appunto chi la vuole poi la mandiamo gratis, che è Disco Rosso. Poi la commentiamo, c'è da dire una cosa molto bella su questa canzone. Va benissimo. qua. Allora, ci dicevi, insomma, ci volevi dire qualcosa su questa canzone? Beh sì, qui c'è questo disco rosso che riesce a fermare anche con tutti uniti, con noi tutti uniti, il treno guerra, quindi è una cosa importantissima. Questo piccolo disco rosso e ancora di più, uno degli illustratori più famosi d'Italia, Emanuele Luzzati, illustrò questa poesia di Rodari con un piccolo capostazione con un disco rosso in mano. E questa figura mi ha fatto sempre pensare a quell'immagine, quella foto del ragazzo che nella piazza di Tiananmen da solo riesce a fermare i carri armati. Ecco, l'idea che qualcuno anche da solo riesca a fermare qualcosa di negativo, ma con la sua sola forza di volontà, e poi magari aiutato da tanti altri, insomma. Senti, tornando alla storia di Gianni Rodari, insomma, alla fine dalle filastrocche per i suoi colleghi alle filastrocche per Paese Sera, mi stavi dicendo. Sì. E ha continuato a scriverne. Sì, a lui fu affidata una rubrica di poesie per bambini, però lui capì che con la poesia poteva fare anche molto, molto, insomma, parlare ai bambini, ma parlare anche a tutti, insomma, anche perché poi non c'è tutta questa differenza. Io questa canzone la canto alle scuole materne, pure alle elementari, ovviamente la commento, insomma, la canto con la chitarra acustica, però gli interlocutori sono sempre validi a prescindere dall'età, insomma. E diciamo, nel libro ci sono tanti interventi anche attuali, nel senso che poi questo ecologismo, partendo dalle filastrocche di Gianni Rodari, al suo appunto definito ecopacifismo, perché comunque rivolte principalmente alla natura, contro il nucleare, ho letto, insomma, beh, poi ricordando, certo. Anche ci sono tanti interventi anche attuali, insomma, su appunto, tu dicevi anche l'acqua, piuttosto, insomma, stavo leggendo di articoli su convegni che ci sono stati per quanto riguarda le decisioni della sperimentazione sugli animali, direttive europee sulla sperimentazione ancora, sì, sugli animali. Diciamo che le poesie di Rodari sono state anche nel libro un modo di affrontare qualsiasi tema di attualità e anche qualsiasi tema ecologista. Devo dire però che Rodari a suo tempo appoggiò sia il movimento del 68 sia i ragazzi del 77, insomma, era comunque, teneva ben sotto controllo quello che succedeva sempre dal punto di vista dei movimenti giovanili, universitari, eccetera, insomma, era una brava persona. Era partecipe, beh, sì, giustamente, sì, anche perché parlare, insomma, di eco. Addirittura un giornalista rimane stupito quando intervista negli anni 90 una ragazza del movimento della Pantera, dell'occupazione università, gli chiede quali libri ami leggere, e lei risponde con due o tre titoli, ma uno era La grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Una cosa stupefacente, insomma. E Gianni Rodari muore quando? Muore purtroppo abbastanza giovane, a 60 anni nel 1980, quindi sono più di 30 anni ormai che è scomparso, ma è rimasto sempre vivo sia come produzione letteraria, sono usciti un sacco di libri suoi postumi, ma anche di autori, ecco, come me, che ne ho fatto uno. È uno degli autori più amati, insomma, d'Italia, insomma, forse qualcuno l'ha definito giustamente, secondo me, il più grande poeta civile del Novecento, per l'ampiezza delle tematiche, diciamo, ecopacifiste, la solidarietà, la pace, l'amore per la natura. Veramente è un autore unico in questo, insomma. Sì, poi che comunque continua a durare nel tempo e di generazione in generazione, certo. Comunque i bambini, le bambine crescono. E io ho voluto fare questo libro sul Rodari ecopacifista proprio per vedere quanto è ancora attuale e quanto le sue poesie possano farci pensare a una pratica di vita quotidiana. Noi, per esempio, c'è un articolo, Un pranzo vegetariano con Gianni Rodari, che è anche un pranzo vegano. La mia compagna è una bravissima cuoca vegana, ecco. E noi, i piatti fantastici pensati da Rodari negli anni 50-60, li rifacciamo a casa, compresa la famosa tristecca ai ferri corti. Vabbè, poi fra un po' ce l'andiamo a leggere, o ce la dici te. Prima ci sentiamo la canzone di Natale, La filastrocca di Natale. La filastrocca, sì, di Natale. È il pezzo forte, diciamo, del gruppo Insalata Sbagliata. Visto è che, insomma, una specie il tempo di compendio di tutte le tematiche rodariane. Visto che ci avviciniamo, ricordiamo, allora, insomma, questo CD, visto che che so che state anche chiamando questo CD, questa musica che state ascoltando è un CD interpretato da Stefano Panzarasa e dal suo gruppo, che trovate all'interno di un libro sempre a cura di Stefano, L'orecchio verde di Gianni Rodari, L'ecopacifismo, le poesie, la visionarietà, la pratica della fantasia, le canzoni ecologiste, edito da Stampa Alternativa, prefazione di Pino, una delle più importanti case editrici antagoniste, insomma, quasi una delle ultime rimaste, prefazione di Pino Boero, disegni di Mauro Maolini ed Emanuele Luzzatti. E adesso andiamo a sentire la filastrocca di Natale. Ritorna ogni anno, arriva puntuale con il suo sacco, Babbo Natale. Nel vecchio sacco ogni anno trovo tesori vecchi e tesori nuovi. C'è l'orsacchiotto giallo di stoffa che ballonzo con aria goffa. C'è il cavalluccio di cartapesta che galoppa e crolla la testa. E in fondo al sacco, tra noci e confetti, la bambolina che strizza gli occhietti. Stavamo parlando di cucina vegana. Esatto. Esatto, quindi adesso della tristecca. Della tristecca. Marco, il protagonista del pianeta degli alberi di Natale, che è un pianeta quasi proto-ecologista, diciamo, che dove si vive veramente nell'ambito della democrazia, della solidarietà, del dono, insomma, senza denaro, senza governo, una specie di anarchia ecologica, insomma, e che funzionava, e dove gli abitanti di questo pianeta prendevano dei bambini dal pianeta Terra per insegnare almeno a loro come si doveva vivere. Insomma, Marco, accompagnato in visita al pianeta, va in una trattoria e trova il cartello "Oggi tristecca ai ferri corti", quindi Rodari mangiava la carne, però noi siamo vegani e quindi abbiamo pensato: come può essere fatta la tristecca? Ma è facilissimo, tu lo sai come si fa? No, io sono ignoratissimo anche perché... E invece si fa col seitan o col muscolo di grano. Il seitan è il grano, insomma, si fa dal grano, insomma, il muscolo di grano, grano e farina di ceci. ceci, insomma, il grano, il nome latino è Triticum vulgaris. E quindi se uno mangia il seitan è praticamente la famosa tristecca ideata da Rodari, che neanche sapeva quello che stava dicendo. Ma adesso mangiare vegano è molto importante, perché i problemi della carne, degli allevamenti, della sofferenza degli animali, insomma, è una questione etica, economica, spirituale, quindi bisognerebbe veramente cambiare stile di vita. E vedo che piano piano, specialmente i giovani, ci si avvicinano. San Lorenzo è pieno di posti dove si fanno aperitivi vegani, insomma. Noi ne approfitto allora, perché la settimana, sabato prossimo, la radio farà la presentazione di Scarceranda in un posto a Centocelle, proprio dove si mangerà vegano. Non è la prima volta che lo facciamo, l'altra volta abbiamo fatto un'altra garbatella, per cui insomma approfitto anche per... Adesso veramente la rivoluzione si fa a tavola, ogni giorno. Anche perché quello che mangiamo, insomma, influisce tantissimo sul nostro corpo, sul nostro essere. Noi abbiamo un sito anche, la mia compagna, che si chiama cucinaecozoica.it, l'era ecozoica, l'era della consapevolezza ecologica. Si mangerà solo vegano. D'ora in poi solo vegano. Allora, poi in radio di questo ne discutiamo tantissimo, visto che ogni tanto facciamo delle cene. Comunque, va bene, allora io direi che stiamo quasi per volgere al termine e ricordiamo un po' di tuoi contatti. Vabbè, innanzitutto il libro L'orecchio verde di Gianni Rodari, di stampa alternativa, poi Bassa Valle del Tevere e la tua mail @alice.it, e ci andiamo ad ascoltare quest'ultima canzone. Insomma, l'abbiamo scelta anche perché hai nominato prima il referendum sull'acqua. Certo. E voi Insalata sbagliata, questo è il gruppo. Se volete andate a cercarlo anche su YouTube, insomma su internet, il video di questo, di questa canzone. E il referendum sull'acqua è passato a stragrande maggioranza della popolazione italiana, tuttavia insomma ancora si minano insomma le decisioni che sono state scelte con un referendum, visto che insomma non sono state attuate tanti degli articoli per cui si è votato. Quindi insomma ci sembrava carino chiudere anche su questo, sull'acqua, ricordando di prestare sempre attenzione. Non è che basta insomma mettere una croce e vincere un referendum, perché oggettivamente evidentemente bisogna lottare tutti i giorni e tenere d'occhio le istituzioni, perché non attuano neanche le volontà decisionali su un sistema, appunto quello elettorale, poi che hanno anche scelto loro. Quindi non so se volevi dire due cose. Il testo non è di Rodari in questo caso, l'unico, è infatti, un testo nostro, è un testo di Luigi De Bonis, il nostro bassista, e c'è un video su YouTube, penso che sia carino vederlo, perché si vede proprio il parco dei Monti Lucretini, una marcia per l'acqua in delle sorgenti che già da molti anni erano acqua pubblica, le Capore Alte. Quindi potete vedere il parco, la marcia, e la canzone l'abbiamo fatta proprio per contribuire. Insomma, anche perché diciamo oltre al cibo l'acqua è sicuramente l'elemento essenziale su cui le guerre, diverse guerre si fondano, ce ne sono già adesso e ce ne saranno. Tutti, come la scuola pubblica dovrebbe essere di tutti, come tante cose dovrebbero essere di tutti, insomma abbiamo dato il nostro contributo musicale ecopacifista. Noi ti ringrazio tantissimo, Stefano, di essere stato qui a Tabula Rasa. Grazie a voi, è stato un onore. Venni alla radio, poi posso dirlo, certo, voglia. Nel 1979 o l'80, ecco, quasi appena aperta, quando si parlava di uno dei primi disastri che sembravano naturali ma non erano naturali per niente, la frana di Ancona, dove avevano costruito su dei pendii argillosi in modo dissennato, e poi a un certo punto i palazzi erano venuti giù. E io, come giovane geologo appena laureato, venni qui a fare una trasmissione sulla frana Ancona. Ma sono passati più di 30 anni, sperando che non accadessero più cose del genere, ma in realtà speranza vana. Sì, poi... soprattutto in queste ultime settimane, insomma, ne abbiamo viste diversi di crolli nel nostro paese. Per fortuna, insomma, però invece di parlare di crolli, abbiamo parlato di una cosa anche, insomma, ci diamo una speranza anche positiva. E per cui, insomma, no, devo dire, insomma, ti ringraziamo, ti ringrazio per questo libro. E ci andiamo ad ascoltare questa canzone sull'acqua. Lo ricordo ancora, L'orecchio verde di Gianni Rodari a cura di Stefano Panzarasa. Fra poco torniamo invece con Zero Calcare e Le profezie dell'armadillo. Speranze non ci sono per questo mondo insano. Come un pasto caldo l'acqua finirà, dobbiamo ripartire per questa umanità. A milioni di persone l'acqua finirà, come il sangue in corpo mai più scorrerà. Faremo resistenza alle multinazionali, pensiamo che da capo bisogna cominciare. Signore ben pensante, ascolta questa voce, non devi speculare su questo unico bene, ricorda di ascoltare chi ti sta vicino, sei l'uomo sopravvivo, senza oro e senza Dio, le fonti che natura non hanno dei padroni, l'avete ammanettato. Sempre Radio Onda Rossa, abbiamo salutato Stefano Panzarasa con questo suo libro a cura di Stefano Panzarasa, L'orecchio verde di Gianni Rodari, l'ecopacifismo, le poesie, la visionarietà, la pratica della fantasia, le canzoni ecologiste, appunto, di Gianni Rodari. Sordida e fradicia. E sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa seconda parte la dedichiamo a Zero Calcare, niente proprio di meno che c'erano addirittura le folle dall'altra parte della porta che chiedevano autografi. Non mi è mai capitato quasi con nessun autore. Impegnate in... La profezia dell'armadillo, ovviamente. Zero Calcare, insomma, già si conosce un po' il libro, fumetto, ha circolato, quindi un po' si conosce. Però ancora non l'avevamo presentato in radio. Cioè, l'hai presentato prima fuori e poi qua, eh? la sua voce nel sotto vento. Ci sentiamo la linea di Greta e in questo scritto sui muri ci sembrava insomma un po' un accompagno positivo, comunque un po' simile. Zombie postmoderni. Visto che si parla di scrittura, si parla di disegni. Condannati a ripetere frasi e pose apprese poi perfezionate nei pomeriggi alla SNAI. Al cuore, insultando, bestemmiando il loro dio, ma poi rido di me. Allora, Zero Calcare, dici una, parlaci, dici qualcosa. Ah, no, non lo sapevo, pensavo che non mi avevi neanche ancora alzato il microfono. Infatti, ma come no? Sei... Allora, oltre alle, insomma, le folle oceaniche che chiedono l'autografo ai tuoi libri, che sono già esauriti, cioè è già esaurito praticamente. Sì, ne abbiamo stampate 500 la prima mandata, è quasi esaurito, nel senso che tutti quelli che erano destinati a vendere online, che poi era il principale mezzo di vendita, visto che non c'avevamo la distribuzione, sono effettivamente già esauriti. E... così, insomma, andava bene, insomma. E quindi lo dovete ristampare adesso, perché sennò qua dobbiamo... vengono gli avvoltoi, però i cani di Balie, eccoli qua. il disco di Lina di Greta stanno qua fuori poi. Sì, li stamperemo sicuramente, pure se in realtà le ristampe minime sono di 500. Io non ne sapevo niente di tutte queste cose, quindi queste cose le sto imparando adesso con questa esperienza qua di autoproduzione. La ristampa minima è di 500, io ho un po' paura che 500 se le diamo in faccia, in realtà altre 500. Ma come, so che anche state nelle classifiche dei 10 top del... di cosa? Guarda, è uscita su Panorama, addirittura io non mi spiego, non è un mio parente quello che l'ha scritta, non lo conosco neanche, però ha scritto effettivamente, hanno inserito questo fumetto nei 10 fumetti più belli del 2010. Del 2011, del, no? 2000, cioè, del 2011, non lo so se è perché ne ha letti pochi lui o perché gli è piaciuto particolarmente. Forse non c'è questo. Nessuno che fa fumetti, se ne è rimasti in 10. Però guarda che erano pure fumetti di stranieri, manco solo di italiani, capito? Vabbè. Allora, cioè, ancora di più, cioè nel mondo, in Europa, tradotti in italiano, quindi esatto. Diciamo così, di circuiti di fumetti. Quindi è insomma un grosso. Che punto della classifica? Lo posso chiedere? Non ce lo diceva. Però penultimo, credo. Però comunque ho buttato via. Dopo che da paura. Senti, quindi ci parlavi dell'autoproduzione. Diciamo che questo fumetto. Allora, io insomma, lo dico per chi ci ascolta, ho trovato questa presentazione la più difficile in tutte le presentazioni di Tabula Rasa. Un po' perché io non leggo mai fumetti. Non so, cioè, tranne quando ero ragazzina che mi leggevo, insomma. C'è stato un fumetto molto bello negli anni 90 che mi leggevo, che l'hanno letto pochissime persone, si chiama Esp, che nessuno conosceva. Che quello era la storia dei superpoteri. C'era questa ragazzina con tutti questi capelli qui spiccola, con tutte dei tipo dread, che si chiama Iena, e a me me lo hanno regalato la prima perché mi dicevano che mi assomigliava. Non solo per il nome, ma anche esteticamente, per l'estrema cattiveria, era l'emanazione di un uomo grande, di un mostro enorme che si chiama il Mangianime, e lei andava in giro a trovare delle persone dove lui potesse succhiare l'anima. E quindi, eccolo, ma molto appassionato. Io ti confesso che mi sa che ero troppo piccolo. Tu eri troppo piccolo, perché proprio inizi anni 90. E poi Dylan Dog, insomma, quindi non sono una proprio conoscitrice dei fumetti, quindi insomma, ho faticato. Col tutto che è un fumetto bellissimo. Posso dirlo? No, ma quasi. No, mi è piaciuto tantissimo, non soltanto perché mi è piaciuto, diciamo così, che proprio il disegno. Disegni molto bene, questo devo dire. Che quando disegni singolarmente nei manifesti o nelle cose così, cioè, sei più caratteristico, non so come dire, sei più. Non so come spiegarlo. Invece qui, diciamo, il disegno è molto più leggero, cioè meno di particolareggiato, tra virgolette, anche se ha molti particolari. Quindi è più fluido e più non lo so, mi è piaciuto molto di questo più. Dipende anche un po' dalle richieste, cioè, per dire, non so, ad esempio anche il calendario di questa radio che stiamo facendo in questi tempi. Chiaramente è il momento in cui in una sola immagine tu devi mettere quello che sorride, quello che tira la cosa, quello che sta al mixer, quello eccetera eccetera. Il disegno si carica per forza di cose. Questa cosa io sono 10 anni e provo a spiegarle ai compagni, ma non c'è verso. Invece questa è una cioè il disegno è minimale, come un po' la storia minimale, no? Parla proprio di una esperienza adolescenziale, come capitano a tantissimi noi. Infatti, diciamo, per alcuni versi ho trovato la difficoltà, non solo perché appunto mi ha ributtato un po' nella mia adolescenza, un'adolescenza inquieta come tutti gli adolescenti, d'altronde non pensare di essere l'unico. Non ho mai avuto questa pretesa comunque. Di essere l'unico, avere così. Però insomma è come l'adolescenza è minima, nel senso che le piccolezze che ci fanno, no? Delle cose abnormi, oddio, eccetera. E così un po' l'ho trovato il fumetto, che è un, diciamo così, un'unione di tante storie che tu avevi già scritto. Raccontaci un po' come nasce questo. Sì, in realtà questa cosa nasce da due robe diverse, nel senso, da un lato nasce dall'assemblamento di un sacco di piccole storie che avevo scritto, un po' come per usarlo un po' a mo' di diario, e che magari, non so, pubblicavo su internet così, senza nessuna diffusione, anche per buttare giù un po' di episodi appunto divertenti del quotidiano, su cui però effettivamente non sapevo bene editorialmente che farci, perché poi non è che ci fossero, non è che ci siano questi grossi spazi editoriali in Italia rispetto ai fumetti, soprattutto rispetto a uno che non sa disegnare le anatomie o le ombre, insomma i Dylan Dog e Bonelli oppure i Disney classici, eccetera eccetera. Quindi io avevo un po' questo cumulo di storie che poi comunque in realtà sono state tutte o ridisegnate disegnate ex novo, insomma proprio quel tipo di storie lì. E poi avevo un'altra cosa in testa da un sacco di tempo, nel senso, adesso non penso che è uno spoiler, visto che si scopre nella seconda pagina del libro praticamente, che il filo conduttore che lega tutte queste storielle è in realtà il ricordo di una mia amica che è morta qualche anno fa. E questa cosa qua, che poi cerco anche di raccontare nel libro, era questo tentativo di raccontare la storia di questa mia amica con i fumetti, era anche un tentativo appunto di ricordare la memoria di una persona che non apparteneva al circuito nostro, quello anche in cui sono cresciuto io, quello in cui immagino anche molti ascoltatori e ascoltatrici di questa radio sono abituati appunto a frequentare, in cui sono immersi. So che io poi, prima ancora di tutto quello che sono i compagni, il movimento eccetera, comunque ho sempre attraversato, che ne so, la scena punk romana eccetera eccetera, e i ricordi delle persone in questi ambienti in qualche modo sono automatici, ci sono dei codici per ricordare le persone, che possono essere i concerti piuttosto che le scritte sui muri, piuttosto che le serate, insomma ci sono dei modi per tramandare la nostra memoria che noi conosciamo, che usiamo eccetera eccetera. Per ricordare invece mi sono trovato, forse per la prima volta in vita mia, a dover fare qualcosa che rimanga per una persona che invece era estranea a questi codici, che probabilmente non avrebbe avuto senso un ricordo per lei attraverso col manifesto piuttosto che la scritta sul muro piuttosto che il concerto. E mi sono cervellato per mesi in realtà su che cosa si potesse fare per far sì che questa persona lasciasse una traccia in qualche modo, cioè, o meglio per far sì che io potessi perché ha lasciato oggettivamente una traccia molto forte in te, quindi... in me l'ha lasciata fortissima, però quindi... io quando una persona lascia una traccia forte in te, tu cioè, vorresti che tutti avessero questa, la stessa percezione tua. E io l'unica cosa che so fare, non so fare niente, l'unica cosa che so fare sono i fumetti, quindi ho provato a buttarci questa cosa qua, a fare questo strano mix che poi apparentemente è riuscito. Andato bene, sì, insomma, anche perché quindi... diciamo che è sicuramente un inizio, nel senso sembra quasi una cosa che può comunque continuare, no? Perché cioè, non esaurisce tutto il tuo mondo, il mondo si creano, si abbozzano dei personaggi che sicuramente secondo me possono svilupparsi molto bene anche in futuro. E poi c'è questo protagonista, questo tuo migliore amico, quest'ombra, questa che è l'armadillo. Come, perché l'armadillo? Per me è la domanda più scontata del mondo. Lo so, vabbè, però pure io, me fatemela fare, non ti ho detto perché. No, c'hai ragione, però tutti lo chiedono come se effettivamente non fosse scontato. Invece per me è scontatissimo il fatto che l'armadillo è tutte quelle storie degli animali totem, quelle cose là. Cioè, c'è l'armadillo, no, manco io le so queste cose qua, però comunque nel senso so che esistono questi animali totem, queste cose qua. L'armadillo è l'animale che che c'ha la corazza, si richiude su se stesso, cioè, si fa scudo con tutto il mondo. Quindi è l'animale sociopatico per eccellenza, essendo un libro che parla di sociopatie per lo più. A me sembrava proprio perfetto l'armadillo come accompagnatore e filo conduttore delle storie. No, ci sta benissimo, poi tu lo inserisci benissimo nella tua vita, ci hai trovato un modo perfetto per interagirci, lui interagisce con te, insomma devo dire che ho trovato molto calibrato anche tutta la storia. Ma la storia, cioè nel senso, hai inventato tutto te, la storia è tutta tua, te l'hanno rivista, i testi... No, c'è stato un lavoro di editing fatto cioè, penso che dall'impaginatrice, da Valeria Leopardi, eccetera, che effettivamente mi ha corretto un paio di strafalcioni ortografici. Ortografici. E tutto il resto invece ci ho avuto libertà assoluta, non mi è stato fatto veramente nessun tipo di cambiamento o modifica della storia in sé. Tra l'altro questa cosa dell'armadillo in realtà è una cosa, anche un po' un escamotage per evitare che Perché i fumetti, soprattutto i fumetti che raccontano delle storie intime, raccontano i pensieri delle persone, spesso sono dei pipponi incredibili, perché ci sono, i pensieri vengono tradotti con delle didascalie lunghissime. Questa storia dell'animale, comunque coscienza che interloquisce, permette di averci delle scene un po' più dinamiche, un po' più divertenti. No, diciamo che tutto il fumetto è divertentissimo, poi c'è la prefazione che ti fa, insomma, il tuo editore, che una sviolinata all'ilarità veramente considerevole. E no, devo dire che c'è un grosso senso dell'umor, della, un auto senso dell'umorismo, e un senso dell'umorismo, insomma, è un po' tu lo racconti qua, soprattutto quando si parla, perché capita a molte persone, pure a me mi è capitato e mi capita comunque, quando si ha un grosso dolore o quando si deve raccontare o si deve dire di una morte, di una eccetera, c'è l'isteria, no? E quindi sembra quasi che tutto il fumetto è accompagnato da questa ilarità molto forte, da cui appunto la prefazione ne è proprio il cappello, quasi una forma di isteria su, insomma, che ti prende anche a te su questo racconto di questa ragazza. E, che vogliamo fare? Vogliamo, io non so, mi sarebbe piaciuto pure che tu ce ne leggessi un po', un pezzettino. No, questo, sì, come no, tutti questo, lo devono fare. Veramente... Lui ha cantato, Stefano Panzarasa, a te. Ma ti ha cantato in diretta. Vabbè, però. Ha cantato, ci ha portato il CD. Così è regalata, così capito. E che ne fa? Lo devo leggere io. Vabbè, facciamo prima un momento di pausa a questo punto, così obbligo Zero Calcare a trovare 2-3 pagine per leggerci la profezia dell'armadillo. Guarda che se lo sapevo, l'ha fatto infatti un trabocchetto, una cosa te la devo assolutamente, che questa cosa non succedeva, non hai detto. Va bene, ci andiamo ad ascoltare una canzone e poi ritorniamo subito a proposito. È stato visto più semplice di quanto si potesse pensare. No, in realtà non è assolutamente vero. E tra l'altro è come quando uno spiega le barzellette, sarà un effetto tristissimo. Vabbè, un po' lo... Però avvertiamo gli ascoltatori che in realtà non è così triste quando uno se lo legge e guarda le no, cose. No, il fumetto non è tristissimo, altrimenti non starebbe nei primi 10, non ci sarebbe la fila e tutto quanto. Sappiamo, insomma, che è un fumetto da paura, quindi proprio obbligato. Per questo, perché così ci differenziamo da tutte quelle che hanno fatto già la presentazione. Non è letto da nessuna parte. No, non è letto da nessuna parte, ecco. Effettivamente. Non lo so, qua per esempio c'è una pagina che è fatta tipo inserzione pubblicitaria, dove c'è un personaggio che poi sarebbe la mia caricatura spesso, eccetera eccetera, che ha uno strano marchingegno legato intorno, con appese sopra la testa tutta una serie di spade e coltellacci, e il claim, si dice così in pubblicità, finalmente disponibile il porta spade di Damocle, e sotto c'è la spiegazione che è ideale per chi è in attesa di rinnovo del contratto, in attesa di pagamento di arretrati, in attesa di sfratto esecutivo, in attesa di giudizio, è affettivamente precario, è in attesa dell'esito di un colloquio, in attesa di un esame, puntini puntini, cioè cosa puoi caricare fino a 200 spade. Questo perché poi io mi sono sentito un sacco di volte con, penso un po' tutti, insomma, nel senso, nelle vite nostre quotidiane abbiamo queste incognite che ci pesano sul futuro e su sulle vite proprio di ognuno de. Cioè, soprattutto, insomma, di chi pretende di vivere con il fumetto, penso che ce ne siano diverse. Sì, decisamente sì, rispetto a te. Senti, quindi questo fumetto dove lo possiamo trovare? Ah, questo fumetto, appunto, come diciamo, non c'ha una distribuzione, quindi c'ha avuto una distribuzione online per i primi giorni che è esaurita. Adesso sostanzialmente passa attraverso i posti dove l'abbiamo portato, che sono una serie di librerie indipendenti di questa città, in realtà prevalentemente praticamente un po' tutte le librerie un po' più piccole tra il Pigneto e San Lorenzo. Sono gli unici due quartieri in cui si trova questo libro, tra l'altro, nel senso che Vabbè, vuol dire che dovremmo venire da tutta Roma, verranno qui per cercare, andranno in giro per San Lorenzo in libreria a chiedere libero di Zero Calcare. Lo ricordiamo, la profezia dell'armadillo. E senti, che altro ti volevo dire, insomma, tu c'hai tutta una serie di sempre tanti gli animali che accompagnano questo libro, cioè c'è l'armadillo, però poi ci stanno le formiche, ci stanno i cani, anche dei personaggi insomma, che ogni tanto diventano degli animali, eccetera. Come c'è, cioè, una fobia, una paura, un amore, siamo in un mondo di animali, di cani, quindi ci trasformiamo, siamo così, come mai? Questa sembra che io me la preparavo, perché in verità adesso effettivamente mi ci fai pensare te per la prima volta a questa cosa qua, in verità. E credo che sia perché cerco di raccontare dei personaggi con renderli il più possibile, no, forse no, renderli il più possibile non universali, però non so, nel senso che siccome sono storie che racconto della mia vita quotidiana, poi vorrei fare in modo che le persone che non li hanno conosciuti li associassero a qualcosa che è patrimonio di tutti, diciamo. Quindi questa cosa degli animali in qualche modo mi consente di, se io ho un'impressione di una persona particolarmente, non lo so, particolarmente viscida, la racconto come una iena, so che tutti lo percepiranno in questo modo, piuttosto che provare a fargli proprio il ritratto suo, in cui magari se uno non ci ha avuto questa percezione dal vivo non riuscirebbe poi a farsi un'idea di quello che voglio raccontare. E devo dire che lo fai benissimo, nel senso che le categorie poi tra gli esseri umani sono categorie molto trasportate, cioè come se all'interno del genere umano comunque ci fossero delle sottospecie molto più simili agli animali. Lo sai che questa cosa qua, umano. Adesso abbiamo appena finito con lo spot sui vegani eccetera eccetera, ma per i vegani, gli antispecisti, questa cosa è proprio il male assoluto, questa cosa di rappresentare gli umani attraverso delle categorie con gli animali. Io, nel senso, per i compagni e per tutti i poster ho sempre fatto le guardie come maiali, e questa cosa ad oggi mi viene rimproverata. Mi viene rimproverata tantissimo agli antispecisti che dicono che i maiali sono bestie nobili e quindi. Io invece sì, invece ho sempre pensato che anche che non fosse in realtà poi una cosa negativa, nel senso che ho sempre pensato che all'interno del genere umano ci fossero invece delle categorie, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli. Tu anche l'hai fatto, cioè usi spesso, ogni tanto usi gli uccelli per rappresentare, infatti, e vabbè, invece voglio dire, perché insomma sono in senso negativo, d'altronde No, ma infatti io lo continuo a fare, però nel senso no, te lo continui a fare ed è per va benissimo. Attira polemica, quindi c'è tutti gli antispecisti contro di qui anche in radio. Potevi stare attento, che devo guardare le spalle. Devi guardare le spalle, potresti trovarne qualcuno. E poi l'altro elemento, insomma, che tu c'hai tantissimo è il tema della casa. Perché sei una persona che sta tanto a casa, evidentemente. Sì, io sto tantissimo a casa. Perché comunque disegnare così, insomma, questi rapporti con il vicinato, insomma, di vita quotidiana casalinga, che capita spesso a molte persone di noi, che è anche il luogo dove, insomma, fa anche molto ridere questa cosa dell'ospitalità, insomma, temi che capitano a noi tutti, no? Quello che di dover sempre ospitare qualcuno e non ti va, perché comunque viviamo da soli, da sole, e dobbiamo continuare, siamo obbligati, soprattutto in una città come Roma dove non c'è ostello, non c'è una cosa economica, quindi sempre tutti dentro casa, oppure il rapporto con i vicini, oppure le ragazze o i ragazzi, appunto, che ti... Sì, ho questa paranoia d'altro di dover pulire casa ogni volta che viene qualcuno, perché mi vergogno a far vedere in che condizioni di degrado vivo, se fosse solo per me, eccetera. Quindi sì. Poi io, appunto, come dicevi te, io in casa ci vivo tantissimo perché ci lavoro. E poi probabilmente faccio questo lavoro proprio perché voglio stare dentro casa, perché poi. Quindi sì, per me è stato proprio un po' la maggior parte delle storie si svolgono dentro casa. E poi per me questo attaccamento alla casa, alla tranquillità, alla privacy, eccetera, eccetera, cozza tantissimo, come dici te, con una città come Roma e con un ambiente come quello dei compagni, dove comunque ci sta la gente che scende da tutte le città d'Italia, eccetera, eccetera. Tu non puoi non ospitarli, no? Nel senso che sennò sembri quello stronzo, eccetera, eccetera. Anche perché poi quando andiamo fuori noi ci ospitano loro, quindi a un certo punto sono tutti devi ricambiare. Gentilissimi con noi. Tra l'altro, fuori Roma in genere la gente è molto più ospitale, molto più gentile di quanto siamo noi romani con chi viene da fuori. Quindi comunque uno se la colla. Però poi questo era anche per me un modo di raccontarlo, oppure perché invece questa cosa mi ha fatto un sacco comodo, perché siccome tutti i compagni anche di fuori se lo sono letto, adesso sanno e comunque si fanno un po' più di problemi che vengono da me, quindi un po' mi ha anche aiutato nel vivere meglio, oppure invece cosa. Lo fanno apposta sapendo insomma perché c'hai degli qualcuno amici, qualcuno in particolare probabilmente sì. Ecco, parliamo dei tuoi amici, cosa ti hanno detto, perché tu ne rappresenti diversi qua dentro, alcuni più o meno riconoscibili, diciamo. E che t'hanno detto? In realtà l'unica cosa un po' finta, diciamo, è che per esigenze narrative ho accorpato a volte più amici nello stesso personaggio, perché sennò non riuscivo a sviluppare un po' più a fondo così tanti personaggi diversi. E loro in realtà sono tutti divertiti, perché pure quelli di cui parlo male, comunque l'idea di stare su un fumetto, che poi dillo che comunque è vero che è una mezza evoluzione, però è un fumetto con un sacco di pagine col codice a barre, sembra una cosa super professional. No, cioè, io non cosa ho detto, no, cioè, sono 143 pagine, ho detto che è bellissimo, io non leggo mai fumetti e questo me lo sono divorato, non tanto come storia, come oggetto, nel senso è che questo che ti ho bene. Detto certo, per questo ti ho detto, ma sin dall'inizio, no, che al contrario dei manifesti, le cose che sono bellissimi, però ci hanno fatica, no? Cioè, nel senso, sì. Invece un fumetto deve essere una cosa cioè la storia regge se è leggero tutto quanto, secondo me. Poi ci sta il fumetto, quello d'autore, quello disegnato, super. Invece questo è figo perché oltre al bel disegno c'è la storia, cioè c'è una bella storia e quindi comunque alla fine scorre molto per questo, e è un libro, più un libro fumetto, perché non è solo un fumetto, insomma. C'è anche storie nelle storie. Queste. Comunque, secondo me chi è stato citato è un sacco contento. Io una volta sono stato citato dentro un fumetto di Alessio Spataro, che è quello, ecco, sulla vicenda di Federico Aldobrandi. Si chiama La zona nel silenzio, per la Minimum Fax, se non sbaglio, eccetera, eccetera. E io ero super contento di essere citato là dentro. Quindi, insomma, spero che chiunque si è trovato poi citato negli episodi di Vita Quotidiana è contento. Va bene, senti, Zero Calcare, la profezia dell'armadillo non ti obbliga a leggere un'altra. Ti ringrazio, guarda. Comunque. Perché sennò dice, comunque, ovunque apro ci stanno animali, i cari, tanti specisti, fra un po' arrivano qua sotto. Io direi ci sentiamo un altro pezzo di canzone e poi andiamo a salutare, perché sono già le 10 e qualche minuto, però insomma c'avevo ancora una cosa da chiederti. Va bene, siamo qui per concludere questa seconda parte di fine di Tabula Rasa. Stiamo presentando Zero Calcare, la profezia dell'armadillo, che insomma, la cosa che dicevo è che oltre a un fumetto, un libro, cioè nel senso che al suo interno ci stanno, è ricco di tante cose, cioè ci stanno delle storie, cioè una storia principale ovviamente, che è anche un po' la tua storia, diciamo, se si può dire, o comunque la storia di questo protagonista che potrebbe quasi assomigliarti, però ci stanno tante storie parallele, non solo dei tuoi personaggi ma anche di amici, anche storie politiche, insomma ci metti dentro tante cose che però di sfondo, di primo piano, su un manifesto piuttosto che su una battuta eccetera, però c'è tanto anche della situazione politica, penso, della tua situazione, di quello che ti sei vissuto te negli ultimi anni, quindi insomma il mio invito era quello di farne degli altri, perché adesso non possiamo farne a meno, come dice il tuo insomma, l'editore della prefazione, non possiamo farne a meno, Zero Calcare per forza devi continuare a farne altri, stiamo così col tipo la bava. Il problema è che col fumetto uno non ci campa, quindi uno deve farne altri. Io questo l'ho fatto d'estate perché effettivamente potevo stare tutta l'estate a disegnare, mo è un po' più difficile, nel senso ritrovare lo stesso tempo per fare questo tutto il giorno, eccetera, eccetera. Come campa un fumettista? Con le traduzioni e le ripetizioni per lo più. Ah, ecco. E poi a fine libro, per tornare anche al tema del libro prima, cioè nel rispetto dell'anima ecologista dell'autore, non specista ma ecologista, questo volume è stato stampato su carta ecologica. In realtà l'autore aveva chiesto un tipo di carta commestibile, ma non è stato possibile soddisfare la sua richiesta, anche se la carta può stare a contatto con gli alimenti, quindi ci si può incartare il pesce. Questo speri del tuo fumetto, scusa che ci Io addirittura volevo commestibile per dire che se lo comprate, se non vi piace ve lo potete mangiare. Quindi comunque almeno quello. Invece ce lo terremo là così, proprio come un altarino. Va bene, senti, noi abbiamo terminato e che dire d'altro? C'hai altre presentazioni in giro per... A Roma in realtà non credo, pure se poi ogni tanto qualcuno mi sta chiedendo, ma effettivamente cominciano ad avere più abbastanza fumetti eccetera eccetera. Ne sto tenendo un pochettino per una presentazione a Milano, a ZAM, al centro sociale ZAM venerdì, e al Pacippaciana di Bergamo giovedì 15 invece. Lo so, dove saranno affari tuoi, dove saranno affari miei, giustamente, comunque lo so, vado nella tana delle tigri. Va bene, noi ti salutiamo tutte le persone grazie a te che hanno ascoltato Tabula Rasa, non saluto quelle persone, neanche li nomino, che normalmente dovrebbero fare chi la trasmissione con me e chi l'alternanza, perché proprio questa settimana mi hanno lasciato da sola, per cui visto insomma impegni veramente improrogabili, però vi rimando a lunedì prossimo sempre con Tabula Rasa. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 e fra poco non ci sarà, perché non c'è